Savonarola, il frate che scansò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari quando si studiava alacremente per ridurre la viralità delle epidemie e abbassare la mortalità, altissima specialmente tra i bambini, pensando che cause e soluzioni fossero complicatissime, e lette oggi da me quando si è capito che la soluzione a moltissimi problemi di natura medica e sanitaria che affliggevano l'umanità da millenni erano semplicemente risolvibili lavandosi più spesso le mani e pulendosi il sedere dopo la defecazione e magari ogni tanto farsi un bagno. È proprio vero, quando il fiume corre broda lavati il viso, e comunque a buona lavandaia non mancò mai pietra. Serio, capitolo 35. Gli intrighi e i loschi piani. Fallito il nuovo tentativo di Piero dei Medici, cadde subito la fortuna dei Bigi e gli arrabbiati loro acerrimi nemici salirono in grandissimo auge. La nuova signoria fu quasi tutta di arrabbiati e Piero degli Alberti, uno dei loro capi, fu creato gonfaloniere di giustizia. Non appena si trovarono padroni del campo che si diedero subito a raffermare la parte e indebolire gli avversari, ma siccome i Bigi erano già caduti assai basso, così gli odi si riunirono tutti contro al Savonarola e al Partito Popolare, al che trovarono grandissimo favore nel Duca di Milano e molto maggiore nel Papa, che ora negava d'aver soccorso Piero dei Medici e prometteva agli arrabbiati ogni favore e ogni opera per aiutarli a spegnere il frate. Si posero dunque efficacemente all'opera e i primi ad incominciare furono i compagnacci, sotto il comando di Messer Doffo Spini, giovane di perduti costumi ma di grandissimo ardire. Si radunavano la sera in laute cene e fra il brio dei bicchieri meditavano sempre nuove insidie al Savonarola. Questi però s'era chiuso in San Marco e si asteneva dal predicare, onde non potevano fargli altro che affiggere scritti ingiuriosi alle mura del convento, cercare con ogni sorta di schiamazzo interrompere le messe e le sue orazioni, insultare quelli che vi andavano ed aspettare occasione a far cose maggiori. E l'occasione si avvicinava perché il Savonarola aveva deciso che nel giorno dell'ascensione, 4 maggio, non avrebbe lasciato il popolo senza predica. Gli animi quindi si esaltarono da una parte e dall'altra, gli arrabbiati si apparecchiavano ad impedire la predica, i piagnoni a volerla, questi si armavano a difesa del frate, quelli ad offesa. I compagnacci, ai quali veniva sempre affidato il maneggio principale di queste enormità, si erano decisi di dovere quel giorno o uccidere il Savonarola o almeno fargli qualche grave ingiuria. 10 di essi si intesero dapprima con un certo Baia, maestro di fuochi lavorati, per far saltare in aria il Pergamo nel bel mezzo della predica, ma poi desistettero da un tale proposito, ripensando al danno gravissimo che ne sarebbe venuto a tutta la moltitudine stivata nella chiesa e all'odio infinito che gli non si sarebbero tirato addosso con tali enormezze. Si decisero quindi ad imbrattare il Pergamo con 1000 brutture, vi posero anche la pelle d'un asino e sulla sponda dove il frate soleva battere il pugno nel predicare inchiodarono delle punte di ferro. Questa era una bassa e inutile ingiuria, ma speravano quel giorno di far nascere tumulto e nel tumulto trovare occasione a porre in atto i loro disegni. Intanto la città era piena di 1000 voci che ripetevano e esageravano questi maneggi dei compagnacci. Alcuni dicevano che s'era con polvere invisibile avvelenato il Pergamo, altri assicuravano che il frate sarebbe stato ucciso in chiesa mentre predicava, chi ripeteva una cosa e chi un'altra. Si fecero quei giorni tali e tante scommesse sul predicare o non predicare del frate che la signoria credette necessario annullarle con 2 deliberazioni del 3 maggio e con una terza ordinava che nel giorno dell'ascensione non si dovesse impedire la predica ad alcuno. Non di meno gli amici del Savonarola vennero nella sua cella e lo pregavano che non volesse mettere a repentaglio la propria vita e che si astenesse per quel giorno dalla predica. Ma il frate, tutto pieno d'una nobile indignazione, rispondeva: «Io non posso, per timore degli uomini, lasciare il popolo senza predica in quel giorno in cui il Signore ha ordinato ai discepoli d'andare pel mondo a spargere la sua dottrina». Allora agli amici non restava altro che apparecchiare le armi per difenderlo. La mattina in sull'alba i primi piagnoni che entrarono in Duomo ripulirono il Pergamo da ogni bruttura, lo ripiallarono e misero in ordine ogni cosa. Il Savonarola usciva dal convento poco prima delle 12 e accompagnato dai suoi più fidi entrava in chiesa. Ivi dietro alla moltitudine stivata di tutto il popolo si vedevano i compagnacci che, senza punto lasciarsi spaventare, si tenevano riuniti in disparte, tutti profumati e riccamente vestiti, con un sorriso di sprezzo e di scherno impudente sulle labbra, facevano un singolare contrasto alla modesta semplicità e devozione dei piagnoni. Il frate finalmente saliva sul Pergamo e incominciava la predica. Dopo una lunga e generale introduzione sulla fede, il Savonarola avvolgeva ai buoni la sua parola. «Voi vi perdete per poco, vi contristate quando dovreste rallegrarvi. Ora si avvicinano le tribolazioni. Vi sarà guerra di scomuniche, di spade e di martirio. Sono venuti i tempi di prova. Iddio voglia che io sia il primo a sostenerle. Io ho già annunziato che riceverò una grande ingratitudine e i tepidi mi faranno come i fratelli di Giuseppe che lo venderono ai mercatanti egiziani. Costoro gridano che io non sono profeta, ma fanno di tutto per adempiere le mie profezie. Io vi ripeto che l'Italia sarà devastata da genti barbare e quando esse faranno pace tra loro sarà allora distruzione sopra distruzione alla perversa Italia. Ma voi buoni fate orazione e avrete l'aiuto del Signore. Ora ai cattivi!» E qui subito un gran mormorio si intese nella chiesa. «Signore, non ti adirare con essi, perdonali, convertili, perché essi non sanno quel che si fanno. Voi cattivi credete combattere il frate e fate guerra al Signore, perché io non vi combatto per odio a voi, ma per amore al Signore. Voi dite che io semino discordia, ma anche Cristo venne a mettere guerra fra gli uomini. Perché non tornate alla virtù, che allora sarà fatta la pace? O frate, tu non dovevi predicare, la Signoria te lo ha impedito. Ciò non è vero, né io debbo astenermi dalla predica per timore o comando degli uomini. Io mi tacerò solo quando la mia predica può far danno, quando temessi di far nascere scandalo». In questo momento, quasi volessero prenderlo in parola, uno scroscio tremendo rimbombò in tutta la chiesa. Si aprirono le porte e la gente si dette precipitosamente alla fuga. Il rumore, il disordine e la confusione furono tali che pareva che il duomo ne crollasse. I compagnacci avevano cominciato il tumulto. Messer Francesco Cei, uno di loro, sollevando la cassa delle limosine, l'aveva fatta precipitare a terra nel tempo stesso che un altro suonava un tamburo. Molti picchiavano sulle panche e alcuni spalancavano le porte. La moltitudine perciò si dava spaventata alla fuga e mentre alcuni si restringevano intorno al Pergamo per difendere il Savonarola, altri erano già corsi in via del Cocomero a pigliare le armi che avevano depositate in casa di Pier Francesco Tosinghi e del ricco Cambi. Costoro, in numero di circa 60, tutti armati in asta e tutti ansanti, tornavano subito correndo verso il Pergamo. Al primo apparire di quelle armi, la moltitudine vie più spaventata, credendo fossero gli arrabbiati, fu messa in un disordine indescrivibile che impediva ad ognuno l'andare innanzi o indietro. E in questo mezzo Bartolomeo Giugni e Giuliano Mazzinghi, che erano degli otto, credendosi sicuri sotto la dignità del loro ufficio, s'avvicinarono al Pergamo con la intenzione di uccidere il Savonarola, ma lo trovarono assai ben guardato e il Giugni ricevette da Carbizzo da Castrocaro una solenne guanciata, cosa mai più avvenuta ad uno degli otto. Fra questo disordine e tumulto infernale, invano il Savonarola alzava la voce dicendo: «Ah, i cattivi non vogliono la loro parte! Aspettate, abbiate pazienza!» Di poi levava in alto il crocifisso e esclamando: «Sperate in questo, non temete di nulla!» Ma vedendo che tutto era vano, perché niuno più ascoltava, si pose in ginocchio a pregare, e quando il tumulto fu un poco racquetato, egli discese dal Pergamo e si pose in mezzo ai suoi, che lo ricevettero con alte acclamazioni di gioia. Alcuni levavano in alto le spade e le lance, altri le croci che avevano in mano, e tutti, al grido di «Viva Cristo!», lo accompagnarono a San Marco, dove, nell'orto del convento, in mezzo ai suoi frati, aggiunse alcune brevi parole per concludere la predica interrotta, e gli disse: «Quanto più tarda la mano del Signore, tanto più sarà grave e severa nel rendere a ciascuno secondo le sue opere. I cattivi non vogliono credere, non vogliono udire, ma essi precipiteranno nella fossa che hanno scavata. Essi scalzano il fondamento d'un muro che cadrà loro addosso. Allora io canterò lode al Signore e uscirò lieto di questa vita». La predica dell'ascensione, che così la chiamarono, corse subito per tutta Italia. Girolamo Cinozzi ebbe la fermezza di raccoglierla in mezzo al tumulto e la pubblicò insieme con la narrazione fedele di ciò che era avvenuto sotto ai suoi occhi, ponendovi anche la conclusione del Savonarola fatta in San Marco. D'altro allora non si ragionava a Firenze, a Roma e per tutta Italia. Ognuno aspettava che questo fatto portasse conseguenze assai maggiori.